This is a Cinema Beats production. Qui comando io, lo gestisco io, perché questo è il mio CD. Sì, l'ho scritto io, l'ho deciso io, perché questo è il mio CD. Molestamente parlando ti racconto del mio, perché questo è il mio CD. E mi stanno cercando e se mi beccano addio, perché ho rubato i beat. Ascolto rap che mi carica, appena sveglio con la vescica carica. Finito di pisciare, scarica, prima di chattare, scaricami. Sono a tanto così da dare un taglio a un campione che ho sentito per sbaglio, con dei synth ed un beat terrone. Bella Roy, ci facciamo un ritornello d'amore con il vocoder. Questo rap, i beat, le rime, l'Italia coi dialetti e tutti i modi di dire. Scrivo testi e mi chiamano artista, tutti con diversi punti di vista. Non sei in lista, non è una svista, è gente esigente, quando paga pretende. Quindi bella raga, mica per niente, su un CD che s'acquista c'è un milione che non vende. Qui comando io, lo gestisco io, perché questo è il mio CD. Sì, l'ho scritto io, l'ho deciso io, perché questo è il mio CD. Molestamente parlando ti racconto del mio, perché questo è il mio CD. E mi stanno cercando e se mi beccano addio, perché ho rubato i beat. Sono il mio personale cerca pensieri, brucerò fino a domani per come brucia da ieri. Non ti seguo, dici proseguo, ma segui tutto un altro desiderio. Oh, ma fai serio? Perché prometti e progetti delle fughe che vedo come fumetti. Giro pagina, meglio voltare, senza puntare in cima, lo dice la mia autostima. Sono classico ragazzo normale, due braccia, due gambe, due canne nelle mutande. Qui mangiano di tutto, pure la foglia, ed è normale se poi perdi la voglia. Non sai che dire quando stanno a decidere per te, almeno stanotte ti puoi deprimere. Quando scrivo salto di base in base, faccio girare i beat e provoco troppe nausee. Mi comando io, lo gestisco io, perché questo è il mio CD. Sì, l'ho scritto io, l'ho deciso io, perché questo è il mio CD. Molestamente parlando ti racconto del mio, perché questo è il mio CD. E mi stanno cercando e se mi beccano addio, perché ho rubato i beat.